con Rolando Ravello, regista del film La prima pietra, in uscita in sala giovedì 6 dicembre. Rolando, ben trovato. Ciao a tutti, raga, ciao, ne parlavo prima con Federico, che è all'ascolto di Radio Onda Rossa adesso. Io vorrei capire questa cosa, perché ormai è l'estinzione, è un... Ah, c'è neanche il fagocero dell'Uganda, è una razza estinta, basta, finito, basta, che dobbiamo fare? Tutto Tutto finito, finito, andiamo a casa, via, basta. tutto finito. Buon Natale, detto questo, buon Natale, ciao a tutti. Allora, Rolando, come lo presenteresti il tuo lavoro? Allora, per me, che è quello che ho detto in conferenza stampa, è il film di Natale che vorrei vedere io, di Natale 2.0, quindi Natale cattivo, dove gli schiaffi ripigliano tutti, tutti, musulmani, cattolici, ebrei, buddisti, mi stava dare un qualcosa, chiaramente sempre ironicamente, mi piace così, su cui riflettere, ma anche no. Cioè, se vuoi puoi andarti a vedere il film e ridere e basta, se invece ci sono altri strati e te li vuoi leggere e te li leggi e poi ne discuti dopo. Quest'è più o meno, ti è. Sì. Com'è nato tutto? È nato da Domenico, come spesso è accaduto nella mia esistenza, Procacci, perché mi ha chiamato lui chiedendomi se mi andava di fare questa cosa, che per me, infatti non a caso, mi ha chiamato, è il naturale proseguimento di Tutti contro tutti, sembra il sequel, Sì, era il mio primo sì, film. sì. E potevo intitolare anche questo, Tutti contro tutti, perché è la stessa cosa, fondamentalmente. Sì. E a questo proposito, come hai lavorato poi sulla sceneggiatura, sulla storia, come l'hai architettata? Allora, nasce da un testo teatrale di Stefano Massini, che in questo momento è l'autore italiano più rappresentato nel mondo proprio. Sì. E il rischio era chiaramente quello di partire da una cosa teatrale che era un rischio da evitare, e pare ci siamo riusciti, dicono. L'altro, che era quello più complicato in assoluto, era quello di riuscire a mantenere neutralità di sguardo. Cioè, non volevo che il film avesse il mio punto di vista, perché sarebbe stato sbagliato, avrei fatto un torto allo spettatore. Mi piace che lo spettatore invece possa fare la sua addizione e il risultato possa tirarselo fuori da solo, in modo che ognuno possa tirare fuori dal film quello che crede e in modo che sia uno scambio. Per me, cercavo di farlo anche come attore, forse capirò come farlo prima di morire, spero il più tardi possibile, ma per me quando si fa questo mestiere bisogna... Guarda, il complimento più bello me lo fece Ettore Scola per Tutti contro tutti, eravamo in Sì. macchina e mi disse: "Oh, sono felice perché hai fatto un film politico, politico come lo intendo io, politico nel senso..." E io lo sapevo bene cosa intendeva. Non politico nel senso di partitico, politico nel senso di conversazione con lo spettatore, di Sì. mettersi in discussione, di condividere un tema e di tirare le proprie conclusioni, di condivisione, cosa che oggi non esiste più, mi Sì, pare, sì, questo. sì. Ecco, in questo senso la scelta del cast com'è stata? Ma guarda, sono fior di attori, non ho avuto costrizioni di nomi, quindi è stata una naturale scelta. Alcuni sono amici miei, alcuni no. Ho avuto il piacere di conoscere, che conoscevo prima, ma non ci avevo mai lavorato insieme, con Corrado Guzzanti, che fa un lavoro straordinario nel film. Lucia Mascino, non la conoscevo, sorpresa. Cascia, vabbè, amica mia, ci ho fatto anche il primo film. Valerio Aprea, Serra Ilmaz, vabbè, Serra Ilmaz è un caso a parte, un lavoro. Io la prendevo in giro perennemente dicendo che era una via di mezzo tra un Hobbit e Yoda. Avete presente Yoda? Quanto mi fa ridere questo. Vabbè. Sì. E quindi ognuno giusto per il suo ruolo, Yaya Forte, ognuno giusto per quello che deve fare, come dovrebbe essere, ecco, più o meno. Sì. Si è creato chiaramente un equilibrio, ognuno ha dato del suo anche rispetto al testo. Ognuno ci ha messo del suo, ho dovuto fare attenzione anche qui a... perché siccome il registro del film è molto particolare, ed è un attimo che si finisca sul grottesco, che si possa andare sul surreale, o invece io volevo una recitazione assolutamente realistica, realistica, pur proponendo dei prototipi, perché ognuno rappresenta un prototipo di altro, era facile poter... Quindi sono dovuto stare molto attento a ingabbiare il registro lasciandogli una libertà d'espressione. Spero di esserci riuscito. Loro però mi dicono almeno questo. E con Stefano invece Massini ha firmato il soggetto, poi com'è stato il rapporto? Guarda, io ancora non l'ho visto lui. Ah, e, ok. E questo, sai, in giro per il mondo credo che si faccia prima a sparargli, riuscire a placarlo più che... Non so più neanche dove sia. Mi arriva, cioè, so solo che deve fare una cosa con Sam Mendes in America, o l'ha appena fatta, non mi ricordo. E mi sono anche chiesto della sua trasversalità. Da Sam Mendes a Ravello ci passa, ci passano non solo 10 ore d'aereo, ci passa altro. E, però è così, Stefano, sì, non lo becchi, sì, l'hanno visto i suoi collaboratori, eccetera, erano contenti. E non lo so, lo incontrerò quando arriverà, quando tornerà. Cosa apprezzi della sua scrittura? Guarda, lui in fondo fa un lavoro simile al mio, con tutto il rispetto, nel senso, gli piace trattare temi che siano spessi, magari anche con un occhio che però non sia per forza quello dello Sturm und Drang. Non è che il giudico accuso, a me anzi piace giocare sulle emotività da morire. A me quello che viene naturale è, cioè anche nel testo suo per carità, è di poter alternare una scena divertente ad una più emotiva. La commedia questo te lo permette, sì. La commedia è quella bella, non sto dicendo che il film sia bello, questo poi lo direte voi, magari fa cagare, quindi no, però questa sarebbe la mia ambizione, sì. Per quanto riguarda questa stagione, a teatro continuerai a fare qualcosa? No, guarda, teatro è l'unica cosa che mi è rimasta come passione da percorrere come attore, ma in realtà non riesco a farlo perché, siccome il teatro lo devi programmare tipo 2 anni prima, e invece cinema e televisione si muovono su altri ritmi, perché sì, il film o il progetto che è nel cassetto parte improvvisamente senza preavviso, non riesco a programmarlo con dolore, perché è l'unica cosa che ho voglia di fare. E posso dirti un'ultima cosa, perché sì, l'ho scoperta prima, perché me l'ha detta Valerio Preo, ci sono rimasto di merda, scusate il termine, ma voglio dire, si dice di peggio. Ho scoperto che io non ho social, non ho niente, perché odio proprio la cattiveria che gira su internet, mi piace di più parlare di persona alla gente. Mi ha detto lui che sotto al trailer della Warner ci sono un sacco di persone che hanno scritto robe brutte ancora con sti film sugli immigrati e hanno attaccato Corrado perché... Allora, a parte vorrei tranquillizzare queste persone che tanto in questo momento non ci stanno ascoltando, perché questa è Radio Onda Rossa, certo. Ma non è un film di sinistra per cui non va visto, ma a parte questo, perché poi se non ci vanno non me ne frega niente, a parte questo, quello che mi colpisce è l'odio, sì, è di fondo. Ma così stiamo, ma non ci siamo stufati? Ma di che abbiamo paura? Ma perché dobbiamo stare con l'ansia dalla mattina alla sera? Nella paura di chi? È così, è così. Rolando, in quante sale? Guarda, parecchie, e infatti anche per questo mi gratto un sacco, perché forse avrei preferito anche meno. Non so in tutto quante copie, credo intorno alle 250, ma insomma, numeroni, piccolino, piccolo, proprio piccolo, e quindi non ho idea di che succederà. Mm-hmm. Come ho detto a Domenico, il sequel della prima pietra lo faccio io diretto venerdì mattina su Ponte Sisto, qua a Roma, con la seconda pietra, me la metto al collo, e se gli incassi di giovedì sera non sono se non altro almeno decenti, io vado giù così, come niente fosse. E allora ricordiamo l'uscita in sala del film La Prima Pietra, dal 6 dicembre al cinema, da giovedì 6 dicembre. Un saluto e un ringraziamento al regista Rolando Ravello. Rolando, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. A voi, buon Natale ragazzi, buon Natale. Ciao.